Una buonasera, Radio Città del Capo, Max Macchia in compagnia di 451 frammenti sonori, sì, perché è una sorta di essere vivente anche 451, quindi giustamente lo saluto. Saluto anche Bon Jerry che mi saluta fisicamente con la mano. Ringrazio insomma Jerry di esistere, come dire, per le musiche che tante volte insomma si incrociano anche con le nostre di appunto di 451, nostre perché c'è anche l'Eliseo Scarpa che questa sera manca ma tornerà domenica prossima. Ci stiamo facendo un po' così da testimone uno con l'altro, uno lo passa e ovviamente insomma c'è questo alterarsi pure, se vogliamo, per molti aspetti. Torneremo comunque tra un paio di settimane quasi sicuramente per l'ultima o penultima trasmissione di 451 prima della pausa estiva. Max Macchia quindi vi augura, come dire, una buona entrata estiva, visto che mancano poche ore all'entrata della stagione più calda dell'anno, che lo sia insomma riguardo a vari aspetti. Non è un caso che tiro fuori il discorso dell'estate, visto che una sorta di dedica a musica solare, o che perlomeno è famosa per essere tale. Stasera scopriremo poi, se già non lo sapete, perché insomma è anche una cosa piuttosto famosa, clamorosa, come dire, fa clamore da più di 40 anni a questa parte, ovvero il dub. Il dub come attraversamento musicale che parte dagli anni 70, da forme di reggae traslato e attraversa buona parte della wave, prima col punk in primis, Clash, ma anche gli ascolti di John Lydon mischiati a quelli dei cosmici tedeschi, che daranno poi per molti aspetti l'idea che formerà poi Public Image Limited, dove il dub sarà unito a una sorta di punk portato ai postumi, in effetti poi post-punk, così inizia anche il libro di Simon Reynolds, che per tanti aspetti tratta proprio il dub come musiche proprio che sono state plasmate anche della materia dub, quindi il punk, la wave, certe elettroniche passate al vaglio industriale. Ricordiamoci personaggi come Mark Stewart, progetti molto interessanti e anche crossover come gli Scorn, che superavano anche quella matrice industrial per andare verso altri lidi, l'isolazionismo, l'ilbient, veramente correnti su correnti influenzate dalla materia dub, che altro non era che una cosa di una semplicità sconcertante ma assolutamente geniale, forse proprio per quello, ovvero una sorta di remix quasi in diretta o comunque in situazioni insomma piuttosto fortuite, mixer sgangheratissimi che usavano Lee Perry, King Da, Tubby, Sly and Robbie, grandi del Jackie Mito, grandi del dub della primissima ora, e elaboravano una sorta di gioco anche assurdo dentro lo studio, visto che con pochissimi effetti, con un senso comunque assolutamente fantasioso e fantastico anche dell'utilizzo dell'elettronica così molto povera, una trasmissione sonora che passa anche attraverso le antenne di qualche Fix Spector, quegli autori, compositori, arrangiatori, potremmo dire, proprio per un utilizzo geniale del banco mixer, che trattavano il mixer come un vero e proprio strumento che a volte poteva essere molto semplice semplice sia come utilizzo, ma anche appunto come risultato finale, quindi un semplice editaggio di quello che aveva comunque tra le corde potenzialmente come strumento questo, e invece altre volte una vera fuoriuscita, una reinvenzione totale delle musiche che passavano appunto attraverso il mixer. Per tanti aspetti è ancora così, seppure insomma si utilizzano mixer digitali, e quindi l'attitudine DAB, se addirittura tanto del suono è ancora ripreso, l'attitudine non è soltanto presente ma addirittura è futuribile. E come, visto che tra le musiche più belle, più visionarie di sempre c'è ad esempio il dubstep attuale, in effetti è anche una sorta di dedica, forse per una trasmissione insomma tutta sul dubstep che prima o poi faremo, dubstep che chiaramente insomma passa spesso o più o meno spesso qua da 451 frammenti sonori. Iniziamo con il sindacato del dub, proprio per dare un segnale ben preciso, quello che fu appunto la traslazione adoperata e operata da un giro di On Un Sound negli anni 80, per appunto traghettarci poi ai nostri giorni, o insomma forse all'altro ieri, e anche non so, con qualche idea su quello che potrebbero essere anche nuovi effetti di vecchie tecniche e tecniche che si vanno anche a scontrare e a incontrare con dei linguaggi assolutamente nuovi e appunto ancora con grande potenzialità. Dub Syndicate. We'll be right back. E dopo David Cunningham, anzi, dopo Dub Syndicate, David Cunningham, un grande della wave, ma non soltanto di quella, visto che partendo da sperimentazioni alla fine degli anni 70 sulla Loop Station e su un particolare, insomma, modo di concepire anche il minimalismo in chiave europea, se vogliamo. David Cunningham viene da quella scuola che soprattutto all'inizio, insomma, diede grandissimi risultati, episodi veramente notevoli come quelli del primissimo Neiman o di Gavin Bryars, ad esempio. Tutta una scuola che comunque, se vogliamo considerarla tale, passa anche da un certo tipo di attitudine improvvisativa, è un po' come dire un controsenso. Poi in realtà, insomma, non è proprio così, se gli americani di Glass e Reich sicuramente, insomma, non lasciano quasi niente all'improvvisazione. Uno, ad esempio, come Terry Riley lasciava parecchio all'improvvisazione. Quindi voglio dire, un discorso, insomma, piuttosto particolare quello che avveniva intorno alla fine degli anni 70 in Inghilterra, non soltanto, diciamo, dentro quel grande calderone ben conosciuto, non soltanto, insomma, da radioascoltatori di 451, ma oramai, insomma, dai più, quello appunto della Wave, anche una sorta di mondo sotterraneo che si muoveva all'interno della stessa onda, come appunto David Cunningham spiega musicalmente, cioè l'avanguardia che passa per un periodo di grande anche immaginazione pop, parapop, di reinvenzione, insomma, di suoni che diventano anche papabili a livello di classifica, se ricordiamo il progetto di Cunningham, che è proprio quello che tra l'altro abbiamo ancora in sottofondo, che è Flying Lizard Money, pezzo costruito con giocattoli, con strumenti di giocattolo, che arriverà tra le prime posizioni delle chart inglesi. Quindi veramente un periodo, insomma, caldo anche in termini di sperimentazione, di unione, di sperimentazione pop. Ma Cunningham, dopo chiaramente, insomma, questa grande abbuffata, si è dato a musiche che per molti aspetti sono più liminari. È finita una stagione che aveva visto, insomma, anche appunto la rielaborazione, la traslazione del dub dentro questo particolarissimo nuovo appiglio alle musiche, insomma, essere a esprimere una qualcosa di differente, appunto, con nascita nella punk, nella wave, musiche che diventano, tra virgolette, più sperimentali, forse. Detta così non significa niente rispetto, appunto, al periodo pop, anche questo tra virgolette, insomma, le cose sono sempre più complesse di quello che sembrano, e a volte cose che sembrano molto più sperimentali poi in realtà, insomma, rientrano più dentro i canoni, appunto, di certe ricerche. Cunningham però è uno di quei personaggi che spiazza sempre. Alla fine degli anni 80, primi 90, riprende la sua creatura Flying Lizard, appunto, quando aveva riniziato, diciamo, a comporre musiche più strettamente avanguardistiche, e dabbizza tutta la materia sonora, la porta all'estremo già di Flying Lizard, che già, insomma, aveva di per sé molto dub, ed esce questo piccolo gioiellino sommerso di dub, quasi astratto in alcuni aspetti, anticipo, insomma, rispetto a tante cose che verranno da lì a pochissimo, anche, appunto, citando all'inizio trasmissione Scorn, Mick Harris e facendo cole varie che, insomma, hanno dato veramente grossi ambiti, grossi valori, anche in termini, appunto, evolutivi, alle musiche elettroniche. Missing Brazilian, splendido progettualità. Se abbiamo iniziato con il giro New Sound, facciamo una dialettica tra questo, appunto, strano mondo di David Cunningham, tra avanguardia, pop, strane frequenze dubbistiche, e quelle di Missing Brazilian, Onus Sound anch'essi, una sorta di un super gruppo dove c'erano dentro Dub Syndicate, Sherwood, Adrian Sherwood chiaramente, Any Anxiety, insomma ribolliva parecchia della faccenda che poi passò per buona parte degli anni 80 come tra le musiche più innovative, soprattutto rispetto a quello che poi sarà la definizione dell'elettronica alla fine degli anni 80, primi 90, quindi con tutto il trip hop che a Bristol avrà molto a che vedere con questi esperimenti dubbistici, in questo caso appunto di Missing Brazilian, ce l'andiamo a prendere da un disco del 1984. We'll be right back. E se siamo partiti citando Kintabi, Scratchy Perry, grandi del dub degli anni 70, i creatori di questa attitudine assolutamente seminale, nel vero senso della parola, nel senso che hanno veramente gettato semi che tuttora danno frutti di incredibile gustosità e anche appunto di incredibile potenzialità nel loro essere sempre più fecondi come musiche. Se loro sono stati soltanto citati, abbiamo ascoltato invece Dub Syndicate, Flying Lizard e Missing Brazilian, quindi quel giro tra Onu Sound e Wave, traslata, dubbata, portata a una sorta di astrazione ritmica eccezionale. 10 anni dopo avviene che queste musiche così legate alla pezzenteria, detta come va detta, di produttori che appunto amavano fumarsi canne dalla mattina alla sera e mixare e remixare i pezzi di Marley, di vari personaggi, insomma, che stavano diventando anche piuttosto famosi intorno alla metà degli anni 70, ma quando ancora appunto c'erano i primi laboratori fantascientifici per tanti aspetti, soprattutto a livello musicale, di Lee Perry, di King Tubby, non era ancora famoso appunto nel reggae né tantomeno il dub, che insomma per molti aspetti è stato un passepartout per quanto riguarda la wave più avvertita, e di conseguenza poi è stato anche conosciuto per il grande pubblico, insomma, di massa, a bianco soprattutto. 10 anni dopo, anni appunto 80, la rielaborazione è in chiave, come si diceva prima, traslata, e poi 10 anni successivi a quel insomma periodo storico della wave, micro soluzioni che si attaccano dentro l'attitudine dub e quindi lo studio di registrazione mixer, che diventa una sorta di spettrogramma per andare appunto dentro le frequenze del suono, dentro la battuta, e quindi trovare sia glitch ma anche appunto frequenze all'interno della battuta che spostandole e isolandole assumono tutt'altro valore. Quindi Paul, che abbiamo tra l'altro ascoltato e ancora leggermente in sottofondo, o Thomas Brinkman, o parte della Mill Plateau, o più da bizzata, certe cose che arriveranno fino al dubstep come Code 9, che iniziarono già all'epoca, insomma faccende che da decennio a decennio rinvendiscono sempre questa tecnica, questa attitudine incredibilmente feconda, e d'altra parte danno una possibilità in più per sperimentare, ma per sperimentare soprattutto su quello che è il ritmo, non soltanto quindi come groove, seppur tante volte insomma è piuttosto groovistica come musica, poi per altri aspetti invece va proprio dentro anche a quell'aspetto squisitamente sperimentale, quindi di indagine del suono, della battuta dentro la composizione musicale. E se Paul fa questo, Meat Beat Manifesto, se da una parte c'è un minimalismo, dalla parte loro invece c'è una sorta di massimalismo che magari è più vicino a certe divagazioni, dilatazioni assolute, come in certi pezzi di Orb del primo periodo, ricordiamo ad esempio Tower of Tab o Dub, che stasera ci sarebbe stata anche piuttosto a pennello, ma noi tant'è che andiamo a tirare fuori Meat Beat Manifesto, che provenivano da quella specie di nuova genia della IBM, dell'Electronic Body Music, mischiata con un electro industrial che diventerà insomma una discorso molto vicino al crossover elettronico degli anni 90, e forse per tanti aspetti sono stati anche loro tra i protagonisti, tra i fondatori, insomma, delle nuove elettroniche di due decenni fa, a sto punto, visto che stiamo parlando degli anni 90. Meat Beat Manifesto, per rimanere insomma dentro le traslazioni dub di questa sera di 451, poi una pausa e dopo torniamo appunto per la seconda parte di questo viaggio assolato, ma come vi dicevo all'inizio, non solo, soprattutto piuttosto sperimentale. Including creativity, but the answers are all three.